Va bene, buonasera a tutti e tutte. Credo che sia il 29 di dicembre, se non sbaglio, con la consueta 27. Appunto, 27, con la consueta, con il consueto ritardo tecnico che contraddistingue da sempre le trasmissioni di Radio ZM, che hanno dei problemi impossibili sempre, costantemente. Anche oggi sono onde elettromagnetiche che creano dei problemi alla trasmissione. Siamo qui per Parlano in Famiglia, un programma di un format assurdo che praticamente è stato inventato in pochissimi minuti e serve semplicemente a darvi delle cartucce da sparare al cenone a questo punto di Capodanno e della Befana, per così poter litigare con un miglioraggio con lo zio Benito, il cugino Adolf e tutto il resto della combricola dei familiari, che non si sa come mai ma la pensano diversamente da voi. Io posso tacermi anche subito perché ci sono persone molto più simpatiche e divertenti di me che possono dirvi perché siamo qui a parlare. Non è vero, lo dico io. Siamo qui a parlare di giustizia trasformativa. E perché siamo qui a parlare di giustizia trasformativa? Perché, questo posso dire, perché io sono ignorante, sono profondamente ignorante di giustizia trasformativa. Ho capito che era importante interessarsene e allora ho detto, ciao va, convochiamo le persone che ne sanno. Nel frattempo il mio volume è mostruoso, tipo stanno esplodendo le orecchie a qualcuno. E informiamoci per capire cosa significa giustizia trasformativa, che non è, e lo diciamo per Gregorio che forse è all'ascolto, non è giustizia riparativa. E adesso non lo so, credo che si dovesse partire da qua. Guardo con non vedete il mio sguardo, ma il mio sguardo è verso Chiara. Si parte da qua. Si parte da qua. Io lo lancio così come domanda, non so chi mi debba rispondere, ma iniziamo da qui, dai. Giustizia riparativa e giustizia trasformativa. No. Per giustizia riparativa e trasformativa io credo che a questo punto vada fatta un'introduzione a Martina Tisato. Forse l'abbiamo detto. Forse abbiamo lei. Abbiamo detto il nome. Abbiamo detto il nome sacro, ecco, esatto. Che sostanzialmente appunto istruzioni su come una vita per cercare di distruggere queste cose, esatto. Martina, e poi è finita proprio così. Esattamente, a passarti la palla per più che altro diventare la Befana al cenone, ecco. Yeah. Capito che questa trasmissione, vabbè, sarà una tragedia. Ho capito. Vabbè. Questo è lo spirito giusto. Vi ringrazio. Vi ringrazio comunque. No, cioè, così va bene, parliamo in famiglia, ma una cosa un pochino più ciao chi siamo, potevamo farla. Magari la facciamo. No? Grazie Gulli, quindi, per questa introduzione importante che ci hai fatto. Prego, prego, mi mancherebbe. Apprezziamo l'umiltà di dire che non ne sai un cazzo, però potevi anche dire chi è che qualcosa un po' l'ha studiato. Non sa poi voi, voi. Sa neanche chi non siamo. Sa neanche chi siamo. Socraticamente non sapevo mai il niente. Il problema probabilmente è questo. Va bene, adesso al di là degli scherzi, io sono Martina, attivista, militante, femminista da diverso tempo e da un po' di tempo anche studiosa e ricercatrice dal punto di vista pedagogico di giustizia trasformativa. Dal punto di vista pedagogico lo dico perché io faccio l'educatrice, sono a questo punto pedagogista e questo è un po' il mio sguardo, il modo con cui ho studiato questo tema. Accanto a questo sguardo che ho tenuto c'è quello dell'attivismo militante sostanzialmente, e per cui è un po' tenere insieme questi piani. Per me l'esperienza è stata un po' questa ed è questa e sarà questa soprattutto in futuro, spero. Cos'è la giustizia trasformativa? È un approccio alla giustizia che non si concentra tanto su chi ha commesso un danno, un reato, ma non necessariamente un reato, ma un danno che ha causato quindi delle conseguenze ad altre persone, o non esclusivamente invece su chi ha subito in qualche maniera questo danno, ma sul contesto, sulla comunità, sul contesto sociale in cui questo danno è avvenuto, per andare a trasformare, per l'appunto, e quindi modificare le condizioni che, culturali e sociali, che hanno reso possibile quella danno, quella situazione, quel reato, quello che sia. In particolare io mi sono concentrata molto sul tema della violenza di genere, non l'ho fatto solo io, nel senso che in realtà la violenza di genere è in generale, diciamo, la violenza interpersonale è uno dei comportamenti appunto che arrecano danno, che sono stati più poi interpretati attraverso la lente della giustizia trasformativa all'interno delle comunità. Si tratta quindi di restare completamente fuori dai contesti istituzionali, penali, giudiziari, di servizi sociali o di di centri antiviolenza o di quant'altra cosa vi venga in mente, con cui normalmente siamo abituati ad affrontare, abituate ad affrontare i reati, i danni che vengono perpetrati, attuati e realizzati da qualcuno, e stare dentro invece una dimensione di microcomunità che si assumono la responsabilità di quello che è successo come comunità, ma soprattutto di quello che va trasformato perché queste cose non accadano più. Ecco, non so se sono stata chiara, forse direi nel corso di questa trasmissione poi capiremo meglio, ecco, magari anch'io che magari capisco qualcosa in più, che non sarebbe male. Molto interessante, soprattutto questo aspetto del fatto che nonostante c'è scritto una tesi sopra puoi imparare ancora, questa cosa è strepitosa. La storia di una vita, la storia di una vita, è vero. Mai di imparare, giusto così, esatto, studiare, giusto, no? Così. E dato, se sentite dei rumori metallici perché ci sono delle bevande che si muovono qui sul tavolo, ma è giusto così. E allora a questo punto ci possiamo rivolgere, colgo il suggerimento pacato che dava prima Martina, alle militanti del collettivo Degenerazione che è con noi stasera, se hanno voglia di provare a parlarci un pochino di quello che hanno incontrato per loro nella loro attività politica riguardo alla giustizia trasformativa, e poi andiamo avanti poi con il resto. Allora, ciao, io sono Chiara, faccio parte della collettiva Degenerazione, collettiva che nasce nel 2017, nasce in realtà come tavolo tra diciamo realtà amiche della cosiddetta area che tuttora appunto collaborano. E si, diciamo, si evolve in collettiva in seguito. Noi, vabbè, partiamo subito col dire che quello che portiamo oggi è la nostra esperienza, è un portato pratico che ci siamo appunto, di cui ci siamo armate negli anni, e che appunto mettiamo a disposizione, mettiamo al servizio con questa appunto voce collettiva, e insomma diciamo subito questo, direi. Sì, aggiungo soltanto una cosa, mi presento, io invece sono Miriam, faccio parte con Chiara e altre compagne della collettiva Degenerazione, e il nostro, un po' che possiamo dire, ruolo qui è cercare di raccontare come siamo arrivate e arrivata alla giustizia trasformativa, visto che non è un percorso lineare, per forza uguale per tutti e tutte, ma che per i nostri ragionamenti, esperienze, le cose che abbiamo vissuto, siamo arrivati e arrivate a questa prospettiva, e abbracciarla completamente, tra l'altro cercare di portarla all'interno dei discorsi delle collettività transfemministe a Milano. È un po' il ragionamento che insieme ad altri discorsi, ad esempio la prospettiva anticarceraria, una prospettiva che sia completamente antipunitivista, cerchiamo di portare sia nelle collettività di cui facciamo parte oltre Degenerazione, ma anche proprio nella città di Milano. Se posso Gulli? Vado. Prego, prego. No, perché mi faceva venire in mente una cosa Miriam adesso, che secondo me è importante per descrivere l'approccio di giustizia trasformativa, perché il grosso delle esperienze che ormai per esempio in Nord America diciamo sono più che ventennali, quindi ecco, noi come al solito siamo un pochino indietro, in Europa si muove qualcosa, in Spagna si muove qualcosa ad esempio, qualcosa si muove in Germania, in Italia che ve lo dico a fare, però laddove invece le esperienze ormai sono più che ventennali, è importante effettivamente ricordare che sono esperienze che nascono proprio dai movimenti abolizionisti carcerari. Perché nascono da lì e perché è importante dirselo? Perché secondo me dà un'idea più chiara di che cosa si vuole fare con la giustizia trasformativa. Cioè la giustizia trasformativa nasce nel momento in cui ci si è dette le carceri non devono più esistere, devono essere abolite. Ma il tema resta. Quindi la domanda è: che cosa fare nel momento in cui succede qualcosa, viene compiuto un crimine, un reato, qualcuno diventa vittima di un comportamento appunto che arreca danno, eccetera eccetera, che cosa fare e come rispondere a queste situazioni e come trasformare appunto le condizioni in modo che questo non avvenga, anche perché il grosso del movimento abolizionista soprattutto in Nord America è movimento di comunità marginalizzate, razzializzate piuttosto che appunto marginalizzate per altre questioni, e quindi ovviamente si tratta principalmente di reati, crimini e comportamenti che hanno a che fare con la violenza sistemica, e quindi si tratta di modificare il sistema sistema che permette che alcune cose avvengano, per fare in modo che il carcere non serva più e quindi che il carcere possa essere abolito, perché è chiaro che abolire il carcere di per sé è giusto dirselo, fuoco alle carceri, ce lo diciamo sempre, è tutto giusto, però è vero anche che dobbiamo prima o poi imparare anche ad approfondire e a capire come rispondere ad alcune situazioni, in modo che davvero quella situazione lì, istituzione totale, non esista più e non serva più soprattutto. Quindi mi piaceva proprio il riferimento che faceva Miriam, che secondo me è importantissimo. Ecco. Penso di essere alternativa ancora una volta. No, no, vai, vai, chiaro. No, no, dicevo appunto siamo alternativa e proprio per questo ci immergiamo nelle contraddizioni che possono nascere anche da semplici slogan che per l'appunto ci ripetiamo ogni giorno ma ai quali bisogna dare una certa sostanza. Marti ci ha scritto una tesi per l'appunto e che quindi appunto cerchiamo di cercare in qualche appunto riferimento teorico che proviamo anche a dare e pratico in realtà che proviamo anche a dare nella puntata, immagino. E io a questo punto partirei, prima di mettere la canzone, con una sola domanda, poi così ci prendiamo già una piccola pausetta più tardi. Martina prima dell'introduzione parlava, metteva l'accento sul fatto che la giustizia trasformativa riguarda la comunità e da questo punto, punto, e da questa cosa partiva questa considerazione: l'ordinamento e l'amministrazione della giustizia è una delle parti più importanti dello Stato, perché è laddove l'organizzazione collettiva di forma Stato si pone come l'arbitro di giudizio tra due soggetti, chi ha compiuto il reato e chi ha subito il reato, ed effettivamente ignorando tutto il contesto. Al tempo stesso ovviamente non si ignora il contesto, perché c'è un ente collettivo che si prende l'onere, talvolta anche d'ufficio, di dover intervenire per diramare la questione, quello che è successo, pensiamo ai casi di omicidio, di violenza, eccetera. Invece la giustizia trasformativa è diverso, cioè la giustizia trasformativa considera la comunità dove è avvenuta questa cosa o le comunità tra cui sono avvenute queste cose, inizia a considerare quello come elemento di partenza e non soltanto e solamente la persona che ha compiuto il reato, la violenza magari, o la persona che l'ha subita. E quindi se magari se avete voglia di partire da qui rispetto al qual è la visione di partenza di chi vuole provare a applicare la giustizia trasformativa rispetto al avvocato, magistrato, giudice nella giustizia borghese, capitalista, patriarcale, non so come si possa definire, o semplicemente punitiva. Prego. Basta. Ma secondo me, e per me, in realtà proprio nella mia esperienza personale e poi in realtà appunto in quella collettiva con Degenerazione, il vero cambio di passo è guardare alla dinamica non più come un rapporto di reciprocità, in realtà unilateralità tra due persone, ma come una situazione immersa, contaminata e anzi, dico di più, prodotta, e su questo è poi tutto un altro discorso a cui spero arriveremo, da una comunità. Da una micro comunità, ma anche in realtà a livello, secondo me, esatto, anche macro, anche proprio sociale. Questo, secondo me, è il punto di partenza dal quale almeno noi siamo riuscite a cambiare proprio prospettiva e quindi poi analisi e quindi poi conclusioni. Questo secondo me è il primo fondamentale cambio di marcia. Detto ciò, questo può avvenire solamente, torno al discorso del comportamento socialmente prodotto, solamente se si inquadrano determinati comportamenti, atteggiamenti che portano a un danno. Io parlerei di danno se siamo d'accordo, perché appunto è il termine tecnico che più ho ritrovato anche nella teoria e nei discorsi in generale sul tema, che portano al danno, che possono essere prodotti, e spesso lo sono diretta conseguenza appunto di un'educazione, una formazione, appunto un episteme, cioè insomma una generale atmosfera nella quale una persona è inserita quando si trova a far parte del corpo sociale di una città, del mondo, insomma di uno stato del mondo. E quindi poi da qua si collega De Cristo la riflessione appunto antipatriarcale. De Cristo è un'invocazione alla divinità, così per intercalare alla Toscana. Sì, De Cristo! Sì, esatto, De Cristo. Okay, no. No, nel senso che secondo me... Era un tipo che si chiamava De Cristo. Esatto. Ah, Giuda, esatto. Porco Dio. Ah, ok, ok. Grazie Martina per aver chiarito, esatto, l'invocazione al Dio. Grazie mille. In questa radio. Assolutamente, esatto, sì. Sì. Ci mancherebbe altro. Libera espressione d'altronde e per questo come alle cene di famiglia. Esattamente, esattamente. Attenzione a replicare alla cera al cenone. E però questo, nel senso che secondo me questo è il fil rouge perfetto per la quale possiamo applicare questo discorso alla violenza di genere, per cui riconosciamo che il patriarcato è un fenomeno sociale, socialmente istruito, impartito e non innato, e poi appunto tutto il discorso del raptus e del mostro eccetera eccetera, che spero vivamente che non ci ritroveremo qua a fare, ma se nel caso c'è ne sarà il bisogno, ripetita iuvant, e che noi assolutamente disprezziamo e rifiutiamo, per cui appunto riconoscere già determinati fenomeni che portano a poi il danno che poi si cerca di non riparare ma trasformare è secondo me un po' la chiave, oltre a vederla poi quindi come una questione comunitaria. Martina, se vuoi aggiungere qualcosa? No, io figurati, mi sono persa pure la domanda, non so neanche dove chiesto. Va bene così, va bene così. Sulla posta. Ma allora facciamo così, magari Martina mi può rispondere alla prossima, e sarà un'introduzione lunghissima, così Martina capirà qual era la domanda e la risposta, ok? Ma se è la comunità che istruisce in qualche maniera la testa, il modo di comportarsi delle persone che ne fanno parte, e talvolta le istruisce in una maniera sbagliata, con concetti patriarcali piuttosto che tutte le varie derivazioni maciste eccetera, la persona che compie il danno per l'altra persona, quanto è colpevole di quello, quanto è colpevole la comunità dietro di sé? E quindi a quel punto, sono sicuro che già sbaglierò le parole, ma sono persona con i miei limiti, chi paga per questo danno compiuto? E come si fa a, magari penso dai vostri sguardi eloquenti, a togliere il concetto di pagare il danno subito con anni di libertà regalati al niente, perché non è che li dai allo Stato, che sei in libertà, in prigione è un modo così per torturare le persone lungamente. Come si fa a risarcire la persona che ha subito il danno, o a eliminare il concetto di risarcimento, perché in realtà è tutto uno schema diverso? Però obiettivamente c'è, cioè, questa cosa io me la domando: se è colpa della comunità che ha educato malamente le persone che ne fanno parte, quando queste persone poi fanno come i proiettili la loro traiettoria e colpiscono, quali sono le responsabilità del singolo, della comunità, e come si fanno poi a riparare? Adoro, perché hai detto un sacco di parole che non avrei mai, perfetto, utilizzato. Iniziamo dalle parole allora. Proprio come lessico, hai detto colpevole all'inizio, ma poi ti sei corretto e responsabile, e questo lo apprezzo, perché ci piacerebbe non parlare di colpevolezza o di colpa, ma appunto di responsabilità. C'è un tema, secondo me, ecco, diciamo che il movimento abolizionista rifiuta la giustizia retributiva. La giustizia retributiva è quella dei nostri stati, nostri un po' tutti direi, adesso non mi viene proprio in mente degli esempi che non hanno uno stato, che non ha, diciamo, liberale, del diritto liberale, sì, diciamo il diritto liberale, ma secondo me non solo, cioè nel senso che la legge del taglione non era proprio il diritto, certo, liberale, certo. Però la giustizia retributiva arriva in certa parte dalla legge del taglione famosa, no? Per cui il tema è, prima era solo ed esclusivamente giustizia punitiva, per cui appunto tu hai rubato e quindi ti taglio la mano perché ti devo punire, poi si è passata alla giustizia retributiva, per cui appunto hai fatto un reato e devi restituire alla società quello che viene misurato in qualche maniera, che è quello che devi restituire, la quota economica o in termini di appunto anni di vita. C'è un tema legato rispetto alla carcerazione, legato alla sicurezza, nel senso che poi lì è però non possiamo lasciare in giro tutti gli stupratori, perché tenerli in carcere è più sicuro per il resto della società, e va bene, cioè facciamoci una risata sopra, perché se così dovesse essere saremmo proprio finiti. Cioè il tema per me è che noi dobbiamo, ma noi secondo me abbiamo il dovere etico e morale in quanto militanti di un certo tipo, militanti e militantesse, no, militanti è uguale, di un certo tipo di movimento, no, di area politica, di area in senso lato politica, abbiamo il dovere morale di dire questa cosa non ci interessa, ma perché noi non possiamo pretendere e avere l'obiettivo di trasformare la società se non impariamo prima a trasformare quello che ognuno di noi e ognuna di noi fa all'interno della società e quanto ognuno e ognuna di noi è influenzato, non istruito malamente, ma influenzato da sistemi che sono sistemi socioculturali dentro ai quali siamo inseriti, che ci piaccia o che non ci piaccia, nel senso che poi tante di noi a un certo punto hanno detto: sai cos'è, forse non mi piace tanto sto sistema in cui io sono inserita, perché? Perché mi discrimina, perché mi rende sempre spesso una vittima nel momento in cui subisco violenze, e magari io questo ruolo manco lo voglio, me lo voglio sentire cucito addosso, perché non mi fa lavorare come gli uomini, perché... E allora lì il tema è: certo che c'è qualcosa di c'è qualcosa che non funziona, e la nostra domanda collettiva dovrebbe essere: come faccio a cambiare quella cosa che non funziona? E allora a me non importa che qualcuno restituisca o che qualcuno paghi per qualcosa che ha compiuto. E qui io poi personalmente non posso fare a meno di pensare di vedere l'unione profonda fra il mio attivismo e il mio essere educatrice, insomma, lavorare nel campo dell'educazione e della pedagogia, perché non mi interessa quando la dico male, e non è manco il target con cui lavoro io, ma quando un bambino sbaglia, fa una cagata, punirlo, lo sappiamo tutti ormai che non serve un cazzo. Dobbiamo con questo bambino o questa bambina ragionare su cosa è successo, come mai l'hai fatto, che cosa si può fare altrimenti, l'hai fatto perché eri incazzato per qualche motivo, e allora bisogna imparare a dirsi che siamo incazzati per qualche motivo, l'hai fatto perché... Cioè, quella è la domanda che noi ci dobbiamo porre nella quotidianità. Per questo per me la giustizia trasformativa ha unito, nella mia esperienza in personale proprio, ha unito la militanza, l'attivismo con il mio lavoro, che ho sempre invece tenuto molto separato, per quanto sia convinta, non farò qui il pippone adesso che il mondo, il lavoro educativo sia un lavoro profondamente politico, però non era la mia militanza. Ecco, invece io credo che ci siano in fondo invece delle origini molto comuni, o degli obiettivi, o degli strumenti, o delle metodologie che si parlano profondamente, e quindi a me questa roba qua mi ha fatto mettere insieme questi 25 anni di esperienza. Allora, che è più o meno l'età di Miriam, tra l'altro. Sì, no, ne ho 23, quindi... peggio. Porco Dio, volevo dire. De Cristo. Mille cose, il mio cervello sta un attimo turbinando, tra l'altro dopo prenderò una penna per segnarmi parole chiavi, sennò poi quando intervengo mi perdo. Poi intervieni come me, dici tutte le parole sbagliate. Esatto. E no, mi sono venuti in mente tantissimi spunti e faccio un breve excursus, ossia oltre a fare da quasi metà della mia vita politica, e fa ridere perché vuol dire che ho iniziato da minuscola, faccio filosofia. E mi sono venute in mente un sacco di riflessioni al riguardo. La prima è quando parlavamo della comunità e di come siamo immersi in comunità e quindi discorsi, società, anche proprio un determinato tipo di, che possiamo chiamare strutture, come il pensiero patriarcale. No, non Foucault, non volevo dire Foucault, ma volevo dire Sartre de Beauvoir, perché ho fatto un enorme esame su il... filosofia politica femminista, grazie a una meravigliosa compagna, e partivamo dalla de Beauvoir sul ruolo della situazione e quindi di come ogni persona è inserita in una situazione. Poi ovviamente, e tra l'altro qui è Sartre che dice ogni persona è sia complice ma anche vittima, anche se a noi non ci piace questi termini, perdoneremo Sartre che ha scritto negli anni 40, però il senso che tu puoi vivere in una situazione e quindi hai determinate influenze, sei portato o portata a pensare e agire in un determinato modo, però puoi anche riprenderti questo e distaccarsi, come le persone qui dentro in questa stanza provano a fare facendo quello che fanno. E quindi questa è la prima cosa che mi era venuta in mente. La seconda cosa è che quando parlavamo di giustizia retributiva, nel senso che bisogna pagare, sempre per l'università ho fatto un esame, un testo molto bello che secondo me è accessibilissimo, che è Abolire le prigioni, punto di domanda, di Angela Davis, in cui c'è tutto un excursus bellissimo su come le prigioni in realtà sono perfettamente inserite nel capitalismo, perché sono a loro modo un proprio un, quasi una fabbrica, nel fatto che mettendo le prigioni, mettendo le persone nelle prigioni, quindi rubandogli il tempo e la vita, utilizzano il tempo e la vita per farli produrre. E questo è un modo, tra l'altro, che è stato utilizzato negli Stati Uniti per replicare il 13° emendamento, quindi per la schiavitù. E in Italia le carceri sono pubbliche, non sono privati, all'interno delle carceri non è una situazione come quella statunitense, però moltissimi paesi occidentali e liberali adottano il sistema statunitense di carceri privati, in cui bisogna produrre all'interno, in cui tu sei in carcere ma lavori, e lavori non perché l'hai scelto tu, ma perché devi farlo per la tua pena. E quindi questo mi ha fatto venire anche in mente su come pensiamo che se viene fatto un danno a qualcuno o anche a qualcosa, tra l'altro, perché non pensiamo, cioè stiamo parlando tutti noi di danni, nel senso a fare qualcosa di spiacevole a qualcuno o qualcuna, ma all'interno della nostra società i danni soprattutto sono ai patrimoni, ai beni, e questa è un'altra grande questione di come allora tu devi risarcire il danno che hai fatto, quindi devi lavorare, sprecare la tua vita per pagare questo debito che hai nei confronti della società, che abbiamo detto che non è assolutamente la nostra prospettiva. Scusa, recupero solo un attimo, perché secondo me è importante. Non è che la giustizia trasformativa, perché ha una visione comunitaria di accountability, non riconosce e non dà valore alla responsabilità individuale. Ogni persona decide come comportarsi comunque all'interno della società in cui vive. Comunque. Sappiamo, ad esempio, che ci sono persone che hanno molte più opportunità, strumenti e possibilità per accedere a un livello di riflessione, di condivisione, di pensiero, di studio, che permette o potrebbe permettere, perché poi appunto non sta scritto da nessuna parte che si vada tutto in quella direzione lì, ma potrebbe permettere di contestare e mettere in discussione il sistema in cui viviamo. Ci sono anche, e questa non è una giustificazione, ma è un dato che noi dobbiamo tenere come oggettivo, ci sono anche delle persone che non hanno queste opportunità. C'è un tema profondo di classe, ecco, che forse insieme all'abolizionismo carcerario dovremmo andare un po' a ripescare per la politica che quotidianamente facciamo. E questa non è una giustificazione, ma è rendersi conto che nella politica che noi vogliamo fare ogni giorno, anche fare in modo che tutti e tutte abbiano le stesse opportunità, ecco, dovrebbe essere una delle nostre stelle polari. Adesso a questo punto io faccio partire la musica e basta, non dico nient'altro. Me llevó un cuarto aparte, preguntó qué hacía, dije que era cantante, me pidió que demuestre, quería que cante, abrí grande la boca, mostrando los dientes, me exigió que respete, dijo calabozo, y en una libreta escribía mi nombre, me dijo usted parece prototipo de puta, sudamericana. Muertos a mi alrededor, que no sé nadie venda para vivir vida, que no mira el hambre que se reparte, ahora más tarde y todos los días. Del otro lado de las orillas, la tele cuenta cómo es la movida, el vecino decidiendo que va a la mejor, que vaya y que me mantenga por vos. Mendoza, La Plata o Constitución, más tecnología hacia el mundo mejor, más que PS, más miedo y control, patrulla tu vida para tu confort. Que sigo operando por las autopistas, el más mataguacho te tiene la mira, mide tus costillas, te ponen cuclillas, como la ficción en tu cara gatilla. Que caiga la lluvia sobre la casa, que esté más lejos, que se derrame esta peste, glifosato desde el techo, solamente encima de todas las brillas. Te saluda el mundo del choque profundo. Lacrimógena batalla, piedrazos a los cascos. Primero me da pena, después me da asco. Te llenamos la plaza, bajamos en Pasco, limón y agua en contra de este fiasco. ¡Oh, qué placer ver a las fuerzas superiores retroceder, retroceder, avanzar siendo millones, fuertes como un bloque, en un grito colectivo contra sus escuadrones! Nadie se suicida en una comisaría, yo aborta. Ok, torniamo in onda sempre con questa fantastica dimensione per cui non ci funzionano le cuffie, non funziona niente, quindi noi sappiamo soltanto da chi ci ascolta se funziona, quindi fatevi sentire, fateci sapere se si sente qualcosa, perché noi andiamo un po' a casaccio come è grande tradizione di questa radio. E durante la pausa ovviamente sono state delle chiacchiere super mega interessanti, che però mi ero perso perché stavo cercando di capire perché, maledizione, non sentivo dalle cuffie. Però vorrei provare a ripartire da questa domanda che c'entrava un po' con le cose che stavano dicendo poco fa qui in studio. La giustizia borghese, patriarcale, capitalista, non so, liberale, quello che volete, agisce dopo che è compiuto il reato, perché lo chiamano reato. La giustizia trasformativa vorrebbe intervenire prima che accada il danno, che venga fatto il danno. E se avete voglia di ripartire qui adesso, qui per esempio si diceva non si vuole fare un'azione di riparazione o di restituzione monetaria. Mi viene in mente Barbero quando parla di come gestivano la giustizia i vandali: una testa rotta, 4 soldi, un braccio rotto, 7 soldi e tutto il resto. Non si può fare questa cosa, cioè, si può fare, ma al senso che ha il senso, perché poi quando compaiono le violenze, le morti, le traumi che durano una vita, qual è la riparazione giusta quantificata in soldi? Ha senso? Non si sa. E invece qual è il concetto della città trasformativa, che ha come concetto di base quello di fare in modo che le persone condividano un set di valori e regole in cui ci credono e che non abbiano poi voglia di infrangere, perché rappresenta la propria identità. Come si fa a fare questo? Quali sono, non so, anche per scivolare lentamente verso la pratica e verso le esperienze magari accadute veramente? Prego, Chiara. Ma no, perché noi abbiamo 3 paroline magiche molto simpatiche che ci siamo inventate, non è vero, non ce le siamo inventate, ma che sostanzialmente sono state un po' insomma il motto un po' che abbiamo seguito in questo percorso, costruire spazi coraggiosi, no? Secondo me appunto la risposta a questa domanda è interessante nei termini in cui parliamo di microcomunità, proprio a partire da noi e quindi dai nostri spazi, dai spazi occupati, i centri sociali e insomma tutto il nostro microcosmo, che appunto è costituito di microcomunità sostanzialmente, e paradossalmente, cioè, mi viene anche da dire, dovremmo essere i primi e le prime, no, ad adottare queste pratiche alternative, anche perché, cioè, è veramente allucinante nel momento in cui ci si ferma e si chiede ma il nostro sistema penale, cioè su cosa si basa, e veramente siamo rimasti alla legge del taglione. Cioè è un qualcosa, è un, di un polveroso veramente ridicolo, imbarazzante, che proprio noi appunto in quanto alternativa dovremmo riuscire a, a sbarazzarci. Poi alternativa in realtà noi da, con Degenerazione l'abbiamo sempre detto, le nostre bolle non sono affatto esenti da, dalla violenza, ma perché siamo molto banalmente, molto semplicemente nate tutte nello stesso mondo, e per cui appunto semplicemente dovremmo cercare quantomeno gli strumenti per decostruirla. Noi appunto con Dege, noi nasciamo Degenerazione, scusate, noi ci chiamiamo Dege con questo piccolo nomignolo, ma non nasciamo appunto in un'ottica di decostruzione personale, ma chiaramente in un ambito collettivo e collettivizzata, per la quale abbiamo anche appunto negli anni anche cercato di narrare la, la violenza dentro e fuori dai, dai movimenti. La, la narrazione, le narrazioni sono uno strumento che sono stati per noi potentissimo, anche solo per smascherarla, anche solo per rendere visibile l'invisibile, l'apparente invisibile, o meglio per chi si, si copriva gli occhi, e questo appunto già è stato un inizio rispetto a, alla, insomma, alla lotta alla, alla violenza di genere. Su questo appunto poi negli anni, interfacciandoci con questa effettiva violenza all'interno dei nostri spazi, del nostro movimento, non siamo mai state poi granché soddisfatte, questo io lo dico subito, lo metto le mani avanti subito, perché, perché è un processo, perché è un percorso, non è lineare, è lungo, molto lungo. Io poi qua faccio una piccola critica, perché mi, mi sento di farla. Noi partiamo da, partiamo insomma, siamo, siamo partite nella nostra storia anche, vabbè, ovviamente da, da Angela Davis, come diceva appunto prima Miriam, che era già riferimento su al, cioè altro, insomma, poi sappiamo che è un po' tutto collegato, però insomma intersezionalità e appunto temi, temi femministi, ma rispetto all'abolizionismo è sicuramente un pilastro per noi. Arrivando un po' più ai nostri tempi, abbiamo, vabbè, qua anche per dare un po' di spunti, poi sicuramente la Marti approfondirà, spero, Adrienne Marie Brown, Mia Mingus, ma di europea, italiana, in Spagna, insomma comunque nella nostra lingua, abbiamo Giusy Palomba che scrive La trama alternativa, che è stato sicuramente un testo segnante per noi. Però a me una cosa che, per la quale mi è rimasta comunque la mare in bocca, è che Giusy Palomba un po' parla come se noi gli strumenti ce li avessimo già. Cioè si trovava in questa comunità di Barcellona, dove effettivamente gli strumenti c'erano, però manca un po' il passaggio, ed è una critica che io ho sentito anche molto spesso in giro, insomma così nelle chiacchiere, riguardo al tema, ovvero come li raggiungiamo questi strumenti, com'è che ci dotiamo, no, di questi metodi, di queste metodologie, per poi, no, scardinare e cercare poi di prevenire a quel punto la violenza. E questo è un tema sul quale noi ci siamo confrontate a lungo, nessuno ha la verità in tasca, questo mi sento di dirlo con assoluta tranquillità. Noi abbiamo organizzato appunto un festival questo giugno, Not All Men, ma la violenza di genere è un problema maschile, che girava sostanzialmente attorno al concetto di responsabilità, che è una grande parolona che mi sembra abbastanza centrale poi nel, nel discorso, anzi spiace per chi appunto non è familiare con l'inglese, ma è ancora più corretto, purtroppo poco traducibile, accountability, che è appunto il concetto attorno al quale ruota poi secondo noi il senso del tema. E quindi appunto la responsabilizzazione sì dei nostri spazi, ma in primis del genere maschile in quanto portatore di privilegio e agente di violenza nei casi appunto di questioni di genere, diventava poi il fulcro tematico che abbiamo voluto dare appunto a questi tre giorni qua allo spazio ZAM, per l'appunto, in cui abbiamo cercato di includere poi anche, oltre a Martina, anche a, collettivi di gruppi di autocoscienza maschile, collettivi appunto che si appassionavano rispetto al tema e appunto persone che in generale interessate o che hanno studiato, per così dire. Non mi spingo a dire esperte perché onestamente è una parola che mi fa un po' cagare, però appunto... Questo è un po' il modo in cui abbiamo provato noi e sicuramente appunto questo tutto ciò ha a che fare con la prevenzione più che poi alla a danno avvenuto, diciamo così, tra virgolette. Quindi costruire spazi coraggiosi. Scusami, prego, prego. Dico solo due cose. Non è vero, ovviamente. Esatto. Avete capito, smettiamola nessuna con questa di noi storia. Ha il dono della sintesi, per cui cazzi vostri che ci ascoltate, ma non importa, va così, abbiamo detto chiacchiere in famiglia e quindi a logorrea. Ma soprattutto la trasmissione è fatta sotto le feste perché c'è tempo, c'è tempo. Poi la registriamo, ci ascoltiamo con calma, non importa, a pezzi, facciamo le pillole. Esatto, è inutile che dico solo due cose, insomma. Ma no, mi veniva in mente però, adesso mi sono distratta quindi ovviamente mi venivano in mente alcune cose. Ecco, secondo me noi non dobbiamo però intendere la giustizia trasformativa come la panacea che risolve tutti i mali. Io non credo che la giustizia trasformativa sia un sistema, un approccio alla giustizia che agisce prima del danno compiuto, prima del reato. La giustizia trasformativa, il sistema della giustizia trasformativa e l'approccio alla giustizia trasformativa avviene nel momento in cui qualcosa accade, ok? Il tema è che se dopo che qualcosa è accaduto noi attiviamo dei percorsi di giustizia trasformativa, in teoria, no, l'obiettivo dovrebbe essere che la comunità all'interno del quale è accaduta quella cosa specifica si trasforma proprio il suo posizionamento, il suo intendere alcune questioni, la sua lettura della realtà, e quindi di conseguenza diventa preventiva perché quelle cose lì non accadranno più o accadranno in misura minoritaria, ok? E questo è importante, perché invece penso che noi abbiamo degli strumenti che agiscono prima e che sono l'educazione, per esempio, in generale il sistema culturale, lo studio, la ricerca, l'approfondimento, il confronto, la politica, no? Tutto quello che costruisce il sistema culturale all'interno del quale noi agiamo quotidianamente. Quella parte lì è preventiva nella misura in cui... non va ad intervenire nel momento in cui avviene qualcosa, ma va ad intervenire su quello che è il contesto e il sistema all'interno del quale noi ci muoviamo. E quindi di conseguenza può essere che impatti su qualcosa che è accaduto, può essere che non impatti per niente, perché poi non è che proprio ci abbiamo una garanzia, può essere che impatti invece su prevenire determinati comportamenti. Quindi quella... è la, non so come dire, quello è il lavoro per me, prima di tutto, delle collettive, dei centri sociali, della militanza, dell'attivismo politico dal basso, di tutta quella quota lì, no, di lavoro. La giustizia trasformativa agisce su determinate situazioni. Quando poi queste due cose si parlano, ovviamente si può lavorare in sinergia, che te lo dico a fare, però sono due cose diverse, cioè facciamo attenzione a non fare poi di tutta l'erba un fascio, non si dice in questa radio, giusto? Perché vabbè, dai, soltanto se è riferimento agronomo si può dire. Sì, erba poi ganja, ovviamente. Esatto. Sì. Mi aggancio per una postilla importantissima, vai. Molto veloce. Noi parliamo di spazi coraggiosi e non di spazi safe. Spazi brave. Esatto, spazi brave, con questo appunto inglesismo, perché siamo arrivate alla conclusione, dopo appunto discorsi, dibattiti, insomma parliamo molto, questo penso si sia capito, che non esistono spazi safe, esattamente, appunto mi riaggancio perché la Marti mi dà l'assist per questo discorso. Non crediamo nella possibilità di appunto torri d'avorio totalmente scollegate dalla società, che si dicono avanguardie e poi in realtà poi appunto replicano esattamente le stesse dinamiche del mondo esterno, poi tra virgolette, poi noi ci diciamo interno e esterno, boh, una dicotomia che non regge molto. Piuttosto a me una dicitura che onestamente mi può soddisfare è safer, quindi più sicuri, ma anche qua, quando è che ci si dice più spazi più sicuri? E quindi noi ci diciamo spazi coraggiosi. Niente, non voglio toglierti la parola. No, semplicemente invece che stavo ragionando sulla questione degli strumenti, per questo se sto virando faccio... Okay. Stile libero, tutte le feste, vale tutto. Allora, che spesso parliamo di strumenti e mi ricordo che anche con Chiacchiere con Gulli ci dicevamo com'è possibile che non abbiamo strumenti? E la mia risposta, perché davvero ci ho riflettuto, è una cosa che secondo me il pensiero politico, il pensiero transfemminista è molto anche su confrontarsi con le altre persone, con quello che hai tutto intorno, ma anche con te stessa, con te stesso. E quindi stavo pensando su appunto il ruolo degli strumenti. E per strumenti credo che noi non intendiamo il fatto che abbiamo delle regole matematiche da seguire, quindi per raggiungere una situazione per cui si sta bene all'interno della comunità non è che tu devi fare regola 1, 2, 3 e poi hai il risultato perfetto. Però allo stesso tempo, come ha detto la Marti, effettivamente noi abbiamo degli strumenti. Gli strumenti sono le nostre vite, le nostre esperienze, il nostro portato, che può essere che qualcuna studia qualcosa, fa qualcosa nella vita, altre persone hanno avuto totalmente altri percorsi e quindi con il loro portato si hanno tanti strumenti differenti. Quindi quello su cui ragionavo io è che da un certo punto di vista, tipo le compagne con in questa visione di... babysitter, esatto, non ti devono sì stavo cercando dico. Esattamente quello, nel senso non sono le persone che hanno la sapienza rispetto al transfemminismo e che ti accompagnano con la manina alla soluzione, però allo stesso tempo abbiamo avuto una determinata esperienza, quindi effettivamente abbiamo uno sguardo magari più centrato sulla questione. Allo stesso tempo stavo proprio ragionando su come avere degli strumenti non significa che siano degli strumenti a priori che tu prendi da un libro, motivo per cui ad esempio quando parlavamo di Giusy Palomba dicevamo la sua situazione è a Barcellona in una determinata situazione, non possiamo prendere quello che ha scritto lei e riportarlo esattamente a Milano, nelle nostre comunità, nelle nostre collettività, però si possono costruire gli strumenti e significa tra l'altro che rispetto a quello che faceva, in realtà descriveva Martina su come un caso di giustizia trasformativa viene applicato nel momento in cui avviene effettivamente un danno e poi però a volte funge da detrattore per determinati comportamenti, allo stesso modo in quel momento crei degli strumenti che non è detto che saranno adeguati nel caso successivo, perché non è detto che tutte le situazioni siano uguali, possono esserci situazioni molto diverse, possono essere situazioni, parlando della violenza di genere, in cui la persona che ha subito violenza è disposta e si sente accolta e nella sua comunità per portare avanti questo tipo di processo, ma può anche essere che non se la sente, quindi anche questo dobbiamo pensare a qualcosa anche di molto malleabile, non per forza dritto, preciso, stabile come un codice giuridico che viene poi applicato. No, oh, è che mi ha aperto la così... Chakra, la settima chakra. Porta, la settima porta, chakra. Vai. Mi ha aperto il chakra degli strumenti. Vai. E adesso ribaltiamo la cassetta sul tavolo. Comunque è bellissimo, ogni tanto si sturano le cuffie e inizia a sentire quello che dite con un orecchio o l'altro. Dobbiamo solo urlare, quindi no. Boh, parrebbe. No, mi veniva in mente che secondo me... Ecco, due cose di nuovo... Una è che in realtà oggi, secondo me, insomma sulla scorta un po' di quello che ho studiato, che non è lo scibile umano sulla giustizia trasformativa per capirci, però insomma un pochino di ricerca sì, per quanto legata al tema pedagogico, in realtà ormai il Nord America ha prodotto degli strumenti metodologici, sì, ma di una precisione assolutamente... non so come dire, maniacale per certi versi e quindi probabilmente pazzesca, ecco, che sarebbe molto bello per esempio tradurre in italiano. Qua faccio un appello ad ascoltatori e ascoltatrici che magari sono capaci magari di tradurre in modo dignitoso, non sono io, ma comunque posso aiutare, nel senso che effettivamente ormai dei manuali ci sono. Sono dei manuali in cui non ti si dice se fai questo succederà questo, ma effettivamente è come una cassetta degli attrezzi di cose che si devono fare nel momento in cui si attivano dei percorsi di giustizia trasformativa e si possono fare nel momento in cui il percorso è attivato e quindi a seconda della situazione e del contesto possono essere più o meno utili nella riflessione e nell'analisi della situazione. Su questi, lo cito perché è giusto, pane al pane e vino al vino, non so se si dice così ma non fa niente, Creative Interventions, lo cito perché è un collettivo, è un manuale, è un toolkit di centinaia di pagine di strumenti e di metodologie scritto in Nord America da un collettivo Creative Intervention che si è riunito apposta ed esclusivamente per produrre quel materiale e che di fatto dopo si è sciolto, per cui c'è solo un tema di poi adesso risposta editoriale sostanzialmente a quello che sta smuovendo il manuale. Il manuale è ovviamente copyleft, quindi si va sul sito Creative Intervention, si scarica tutto, c'è in inglese, c'è in spagnolo se non mi sbaglio, io lo vorrei fare in italiano. Ma non c'è nessuno che si vuole candidare a tradurlo? Per favore. Sarebbe molto bello, parliamo di credo 500-600 pagine molto precise, per cui ecco, io i volontari bella lì, ecco. Ma se c'è qualcuno in questa stanza che organizza la programmazione di ZAMS, potrebbero fare degli eventi a benefit di questa cosa e pagare qualcuno per fare questo lavoro di traduzione. Non lo so, secondo me si potrebbe mettere insieme un gruppetto che lo fa, non so come dire, per cui ci si divide i lavori, anche perché ovviamente c'è un po' di riflessione da fare, non è che lo puoi mettere su Google Translate perché il lessico è importante, ma perché spesso ovviamente Google non ci becca, diciamo così. Poi la traduzione non è neutrale, grazie a Rachele Borghi. Non è neutrale, cioè, e quindi... Insomma, chiariamo anche che tutto quello che viene tradotto da Google Traduttore diventa proprietà di Google Translator, cioè. Sono queste cose un po' banali di formazione. Tanto quello va... Colpa dei nostri hacker che... Esatto, ci mettono l'ansia addosso. Scusate, prego. Comunque c'è questo, mi veniva in mente, quindi effettivamente oggi chi volesse intraprendere un po' questo percorso, in realtà un po' di strumenti da cui attingere ce li avrebbe. L'altro tema, e qui faccio riferimento all'esperienza, no? Alla storie personali, cioè io arrivo al tema della giustizia trasformativa e ai primi articoli di Giusy Palomba su appunto quello che poi è diventato un libro, perché si verificò una situazione all'interno di uno spazio sociale alleato, insomma vicino al movimento che io all'epoca facevo. Lo spazio sociale decise di sostanzialmente sospendere le proprie attività e intraprendere un percorso di autoriflessione rispetto appunto all'avvenimento accaduto su richiesta, questo viene su richiesta della persona che aveva subito una violenza, in accordo in teoria quantomeno formale anche con la persona che con la violenza aveva agita e in accordo con il resto del collettivo, quindi si bloccano tutte le attività e parte un processo di autoriflessione, direi autocoscienza, ma purtroppo secondo me l'autocoscienza è, insomma, viene fatta in un altro modo, cioè ci vuole molta più sincerità di quello che poi è avvenuto, ma non importa, non critico perché credo che sia stato comunque un tentativo all'avanguardia che è franato, ma è franato e qui per esempio, ecco, alcuni di questi manuali ci danno alcuni elementi che non ci danno la garanzia che poi le cose sarebbero andate in modo diverso o che comunque si sarebbero andate bene nell'intenzione, no, del raggiungimento degli obiettivi che ci stiamo dando, però ci dicono comunque insomma ti tuteli un po' di più, cioè tuteli il percorso, non tanto te come persona, ma tuteli il percorso un po' di più. Fra queste per esempio a me viene in mente sempre la prima, è che questi percorsi necessitano un gruppo di facilitatori o facilitatrici, cioè l'autocoscienza è una cosa, intervenire con un gruppo, con una microcomunità nel momento in cui accade un avvenimento di questo tipo può essere fatto, ma deve essere un po' facilitato, non condotto, non mediato, ma facilitato, cioè commento, vai. Esterni? Questo è un grande tema. La domanda prima, vogliamo spiegare cosa sono i facilitatori e facilitatrici, ah, okay. Perché magari non è detto che... Beh, facilitatore e facilitatrice in un percorso si intende una persona che aiuti sostanzialmente lo svolgersi del percorso stesso. Per questo dicevo non conduttori, perché il conduttore ha un obiettivo molto chiaro, una linea da seguire, né mediatori, perché non si tratta di mediare fra le parti, ma facilitatori. Facilitatori di una conversazione sostanzialmente, no? Che aiutino però a far emergere gli stati d'animo, a garantire che tutte le persone che sono coinvolte dentro quel percorso si possano esprimere, a sappia leggere se ci sono delle situazioni che vanno magari interpretate, che tengano un po' le fila e aiutino a non, ad esempio, disperdersi, no? Nei meandri di quello che tutto questo può generare, perché ovviamente possiamo andare avanti all'infinito e noi lo stiamo ben dimostrando. Quasi, quasi, non è vero, ci siamo. Quindi questi facilitatori e facilitatrici interne e esterne, io... E forse non solo io, ma adesso non ti saprei fare un riferimento specifico, ma secondo me, per esempio, chi altro ha scritto è Mia Mingus, lo citava prima, ma fa parte del collettivo peraltro di Creative Intervention, Insight, Generation 5, c'è tutta una serie, insomma, se si fa un po' di ricerche si trovano, secondo me deve essere esterno. Può essere vicino, niente, nessuno dice che deve essere uno sconosciuto o una sconosciuta, ma il tema qual è? È che se tu fai parte di una comunità in cui avviene una cosa di questo tipo, tu sei parte in causa di quello che è successo e come tale tu non puoi essere sopra le parti. Sì. Ci vuole una persona che possa essere sopra le parti. D'accordo. Vicina, alleata, conoscente, sconosciuta, non importa, nel senso che ormai appunto in Nord America ci sono dei gruppi che si occupano di questa cosa qui e quindi tu li i gruppi collettivi, le comunità eccetera, le contattano perché hanno bisogno di essere accompagnate dentro questo percorso e quindi si può essere uno sconosciuto, ma può essere anche qualcuno vicino, ma non deve essere dentro quella situazione lì, perché sei parte in causa. E allora se parliamo di community accountability, non c'è nessuno che si può tirare fuori da questa prospettiva, ci sei dentro e allora ci stai. E questa è la prima. La seconda cosa, secondo me, importante è che secondo me lì non solo lo spazio sociale, ma poi anche altri nel momento, io per prima, nel momento in cui abbiamo avuto a che fare, siamo stati un po' coinvolti dentro questo percorso, l'altra cosa è pensare che se c'è una comunità che ha una confine, no? Non so come dire, tutti e tutte devono essere per forza coinvolti dentro il processo di giustizia trasformativa, processo nel senso di percorso ovviamente di giustizia trasformativa, né che deve essere per forza coinvolta la persona che ha subito il danno o la persona che l'ha arrecato. Nel senso che se parliamo di community accountability, noi parliamo di community accountability. E quindi ci può essere una comunità che nel rispetto della persona che ha subito il danno, ovviamente, e quindi lì comunque delle parentesi vanno aperte rispetto alla tutela di quella persona eccetera eccetera, nel rispetto di qualcosa il può decidere che indipendentemente dalla presenza o meno dentro al percorso di queste due figure chiave, ovviamente, che generano la riflessione, però una riflessione la fa. E lì è un altro errore grosso che è stato fatto, motivo per cui a un certo punto tutto si è sfrangiato un po'. Uno dei motivi per cui a un certo punto tutto si è strafrangiato. La terza cosa, e la vediamo invece rispetto all'esperienza che ci riporta Giusy Palomba, ad esempio, è stato, secondo me, col senno di poi ovviamente, bloccare tutto. Nel senso che se blocchi tutto crea una situazione di eccezionalità. Esatto. Invece noi non ci muoviamo all'interno di situazioni eccezionali, noi ci muoviamo all'interno di situazioni estremamente quotidiane. E quindi all'interno della quotidianità bisogna ritrovarsi, ricavarsi lo spazio per fare anche questo pezzo qui. Perché poi anche quella è la cosa difficile. Quanto spazio dedichiamo al danno, alla situazione di violenza, ma anche in generale al discorso di genere? Cioè è un punto in ordine del giorno o è il percorso che portiamo avanti quotidianamente anche fuori dalla contingenza, fuori dall'episodio? È quello anche un po' la cosa difficile. Aggiungo una minuscola cosa, tornando un attimo indietro sugli strumenti. Mi perdonerete il pippone filosofico un po' un po' 77, fantasia al potere. Però i nostri strumenti sono i nostri desideri, sono i nostri bisogni. Cioè tutto ciò nasce comunque, banalizzandola a livelli proprio estremi, dal fatto che qualcuno abbia capito che cioè c'è un bisogno primario che è la libertà di movimento, no? Che la galera evidentemente ti toglie, ti priva a volte per tutta la vita. Qua faccio piccolo excursus, mi è piaciuto molto Gino Cecchettin che dopo la sentenza di ergastolo a Turetta dice non è cambiato niente, l'ergastolo non ci porta niente, mi è piaciuto molto. Qualcuno ha sentito il bisogno di trasformare la comunità a seguito di un danno, e quindi per lo stesso motivo per cui prima lo diceva Miriam, noi siamo un collettivo prevalentemente femminile, sapendo che stiamo interpretando questa non come categoria biologica ma sociale, questo lo dico sempre, è importantissimo, che si è messo a fare un percorso sulla responsabilità, sull'accountability, sulla giustizia trasformativa, ma anche sulla maschilità. E quindi appunto può sembrare paradossale, ma è perché noi partiamo dal nostro bisogno per definire appunto la categoria di violenza, la categoria di privilegio e quindi poi di maschilità. È giusto che ripartiamo dal nostro desiderio, dalla nostra volontà e soprattutto agency. Altro termine importantissimo secondo me in tutto questo tema, è intraducibile, esatto, si può dire sì, no, possibilità di essere agente, non so, no, non si può proprio tradurre, comunque agency per l'appunto, potere, to, se insomma è a livello appunto possibilità di agire, secondo me ci sta. Se poi a livello di costrutto sociale, insomma, è potere, è un po' la parola che può incarnare, è appunto ripresa di potere. A noi empowerment fa un po' cagare come parola perché è stata assolutamente sussunta da multinazionali varie e schifezze varie in giro per il mondo. Resilienza. La parola è resilienza. Esatto, vabbè. Empowerment femminile, ma è veramente una ricentrare il potere sul nostro bisogno e quindi definire noi ora che mondo vogliamo e quindi parlare noi di maschilità e quindi parlare noi di come appunto gestire la violenza e il danno e secondo me appunto anche come strumento si può anche solo partire da questo per quanto mi riguarda poi. Niente, metto la musica prima che possiate andare avanti. Ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, activa, atreca y alegría. Ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. A golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Chain hits my chest when I'm banging on the dashboard. My chain hits my chest when I'm banging on the radio. Get back, get down. Pull me closer if you think you can hang. Hands up, hands high. Don't go screaming if I blow you with a bang. Ah, suki suki, I'm coming in the Cherokee gasoline. There's steam on the window screen. Take it, take it. Wheels bouncing like a trampoline. When I get to where I'm going, gonna have you trembling. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Chain hits my chest when I'm banging on the dashboard. My chain hits my chest when I'm banging on the radio. Yeah, back it, back it. Yeah, pull up to the bumper game. Read the signal. Cover me, cause I'm changing light. A handle on it. My life. I'm broke it. When I get to where I'm going, gonna have you saying it. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Chain hits my chest when I'm banging on the dashboard. My chain hits my chest when I'm banging on the radio. Chain hits my chest when I'm banging on the dashboard. My chain hits my chest when I'm banging. Get back, get down. Pull me closer if you think you can hang. Hands up, hands high. Don't go screaming if I blow you with a bang. Going up to bitch, I'll see for a million. Accelerating fast, I could do this in a second. Looking in the rear view, swagging, going swell. Leaving boys behind, cause it's legal just to kill. Shift gear, automatic, damned if I do. Who is gonna stop me when I'm coming through? What we got left is just me and you. But if I go to bed, baby, can I take you? Get back, get down. Va bene, torniamo in studio mentre si racconta che c'è GPT, viene sgridato malamente da Martina Risato. Non è il primo e non sarà nemmeno l'ultimo, probabilmente, né essere umano vivente né macchina pensante. Sai che c'è GPT è maschile quando sbaglia e femminile quando fa le cose giuste. Ah sì, eh? Facciamo così, sì, l'hanno il mio programmato così. Con ChatGPT è così. Come fai a dirgli, gli dici bravo a ChatGPT quando brava fa le cose giuste, chat invece GPT. Sei un coglione ChatGPT. Bravissimo. Poi ringrazi, grazie mille. Certo, no, c'è un rapporto molto cordiale. Non nel senso di grappa, ma nel senso di gentilezza. Capisco, capisco. Questa era bella, se volete, il mio contributo alla puntata. Grazie. Questa spettacolare battuta. Grazie davvero. Va bene, a questo punto io devo recuperare gli appunti che avevamo preso qualche giorno fa. Nel frattempo, se si vuole, si voleva fare un minimo di bibliografia, se è chiara i titoli sull'unghia, di alcune delle cose che ci siamo detti. E si parlava anche, sempre per prendere tempo, mentre riaccendiamo i cervelli, si parlava anche di questi problemi di traduzioni che mancano. Quindi facciamo appello a traduttrici volontariose che abbiano voglia di partecipare ai progetti collettivi. Nel frattempo... Ma io ho i titoli in mente proprio così, così. Quelli che, soltanto per gli ultimi temi, esatto, quindi gli strumenti, eccetera. Così. Abbiamo allora... detto quello del collettivo, come si chiamava? Creative Interventions, creativeinterventions.org. Trovate sia il workbook che il toolkit. Yeah. Ma a me sull'abolizionismo poi mi veniva in mente, appunto, a parte Davis, che è assolutamente aboliamo le prigioni, punto di domanda. Mi veniva in mente un testo che, tra l'altro, in realtà ho letto per un corso universitario anche io, spoiler, studio anche io filosofia, esatto, succede tra noi filosofe. Le prigioni rendono la società più sicura, altrimenti mi da sfatare, Victoria Law, che più che dare, in realtà purtroppo non dà particolari informazioni su, o comunque insomma riflessioni su forme di giustizia alternative, ma mostra, appunto, fa una panoramica molto interessante su, sulla situazione dell'incarcerazione di massa, principalmente statunitense, ma si possono facilmente rivedere anche, appunto, spunti italiani. E sull'abolizionismo questo, poi c'è una bibliografia infinita in realtà, Marti, aiutami. Ah no, non so. No, proprio no, ok, niente. Poi invece abbiamo citato, giusto per metterlo in linea mentre parlavamo, la trama alternativa di Giusy Palomba e... fammi pensare... Ah, in realtà invece se si vuole fare più un po' un discorso introduttivo su quando parlavamo di essere immersi in una situazione, partire sempre da un portato culturale, un'educazione, Donna, razza e classe di Angela Davis, anche perché è scritto in una maniera secondo me super accessibile. Possiamo anche dire tutto quello che ha scritto Angela Davis. Assolutamente. A mani d'accordo. Basse proprio. Leggi che va, cioè, bene. Se non sai cosa legge o se non sai cosa sceglie, te pigliatene uno di Angela Davis. Sbagli e comunque mai. Caschi bene. E comunque caschi bene. Sulla giustizia trasformativa, appena tradotto in italiano, Per una giustizia trasformativa di Adrienne Marie Brown. Con Meltemi, io consiglio, tra l'altro, non è un riferimento bibliografico, ma su YouTube, facilmente accessibile, molto veloce, chiaro, semplice, fantastico, video di una raffica, appunto, di teoriche, militanti, anche facilitatrici, insomma, persone che si sono interessate / hanno studiato la giustizia trasformativa. Purtroppo in inglese, What is Transformative Justice, su YouTube, che appunto in realtà in cui in realtà compaiono gran parte delle persone che abbiamo citato. Che figo, grazie. Posso dire solo una un po' più pedagogica, visto che è. E tanto la gioco facile, nel senso che tutto quello che ha scritto Bellux, esatto, è la trilogia Insegnare a trasgredire, Insegnare comunità, Insegnare pensiero critico. Ma sulla scorta di quello che stavamo dicendo prima della pausa musicale, io consiglio molto un libro che qui da noi è considerato minore di Bellux, che è La volontà di cambiare, mascolinità e amore. Sì, ecco. Sì, anche All About Love, tutto sull'amore, assolutamente. Basta. Abbiamo da leggere per tutte le vacanze, poco esatto. Ma sicuro, anche di più, parecchio oltre. Ma allora io volevo ripartire, ce la faccio, da una cosa che diceva prima Martina riguardo alla relazione che ci potrebbe essere, lei se non sbaglio la metteva giù in questi termini, riguardo allo spazio sociale e la giustizia trasformativa, dove non si può pensare che la giustizia trasformativa è la panacea di tutti i mali. C'è un tipo di lavoro che è l'azione di giustizia riparativa, chi subisce il danno, chi ha creato il danno e tutto quello che c'è intorno, e poi tutto quello che veniva definito come mondo culturale da modificare, la pedagogia. Allora a questo punto, dato che io purtroppo sono fatto anche così, la domanda che mi veniva era: chi è che si deve occupare di giustizia trasformativa e come? Cioè, facciamo finta, e non è l'esempio giusto, me l'aveva già detto, Martina, non lo farò, esatto. Però ci sono dei ruoli di giustizia trasformativa, le persone che fanno parte della comunità di chi ha subito il danno si prendono carica di alcune cose e chi ha portato il danno... No, ma non è... Ecco, io su questo dico attenzione, alcune esperienze sono andate in quel modo lì, altre vanno in modo diverso, su questo davvero non c'è una strada scritta. L'unica figura davvero che secondo me poi appunto dal basso della mia esperienza, perché in termini concreti ovviamente ce n'ho veramente pochissimissima, ma un po' studiandola, l'unica figura, ruolo che secondo me ci deve essere è la facilitatrice. Poi dopo che cosa succede dipende da che cosa è successo, dipende da quali persone sono coinvolte, dipende se è coinvolto chi ha agito, se è coinvolto chi ha subito, se è coinvolta solo la comunità, quale parte della comunità. Cioè non c'è, su questo non c'è uno scritto. Sicuramente ci sono tantissimi esempi, anche di quelli più, perché poi c'è per esempio un filone che secondo me sarebbe interessantissimo approfondire adesso, ovviamente qua la dico perché sono anch'io, ho i miei momenti nerd di anarchismo legato, che si è mosso all'interno dei contesti di giustizia trasformativa, per esempio anche in Germania, ecco, per cui collettivi e collettive anarchiche sostanzialmente, che comunque hanno fatto tutta una serie di esperienze, ma anche negli Stati Uniti un po' si arriva o dai movimenti abolizionisti o appunto dalle esperienze anarchiche, per quanto appunto poi l'anarchismo negli Stati Uniti sia anche diverso, ecco, da quello che conosciamo noi qua, insomma, però come approcci, però quella cosa lì, per cui storie di dico nerd perché qui abbiamo storie di fanzine scritte a mano, cioè se vai a fare ricerche online in realtà ci sono degli archivi pazzeschi da questo punto di vista, le fanzine scritte a mano, i disegni, le robe super punk pubblicate, condivise, no, all'interno dei contesti. Tanti di queste storie qui comunque ci dicono, se sono coinvolte all'interno del percorso la persona che ha agito, la persona che ha subito il danno in questione, comunque bisogna, è utile fare in modo che entrambe abbiano poi delle persone di riferimento all'interno della comunità che non sono, non necessariamente, ovviamente non lo dico, che non dovrebbero essere i loro amici o amiche, ma che dovrebbero essere persone all'interno della comunità che si assumono quel ruolo. La questione è che un processo di questo tipo, e questo ce lo dice molto bene Giusy Palomba in italiano, ma in realtà tutte lo dicono, prima di tutto, non so come dire, noi stiamo parlando di percorsi e di esperienze che tendenzialmente vengono raccontate e di competenze che vengono costruite come se tutto andasse bene, in realtà la percentuale poi di successo cosiddetto è molto bassa rispetto ai percorsi che vengono attivati. Esiste, no? Un qual successo? Qual è il successo? Qual è la no, il successo è raggiungere gli obiettivi che ci si è dati, non è, cioè, per cui anche lì anche gli obiettivi cambiano, perché se l'obiettivo è la rilettura un po' di quello che è accaduto come primo punto e poi quindi anche costruirsi degli obiettivi più concreti e più di sistema all'interno della comunità di cui facciamo parte, no? Per cui il successo per me va in questa direzione qui, per esempio di dirsi il percorso dura da oggi a il tal giorno, i requisiti perché questo percorso venga fatto sono questi requisiti vengono rispettati per tutto il percorso, i ruoli che vengono definiti sono rispettati per tutto il percorso, cioè, non so come dire, a volte è veramente più il processo che non il risultato, il successo, no? È più determinato dal processo, esatto, che non dal risultato, esatto. In questo senso, o dal porsi gli obiettivi giusti. Farsi le domande giuste, farsi direi. Le domande giuste, esattamente. Non facile per niente, comunque. Cioè, nel senso, sono d'accordissimo sul fatto che bisogna porsi le domande giuste. Allo stesso tempo mi viene da pensare ancora una volta come quanto sia difficile a volte porsi le domande giuste, ed è come diceva Chiara, a partire forse dai bisogni, dalle nostre esperienze, da quello che viviamo, è forse la cosa più facile. Non per questo facile nel senso emotivamente facile, però spesso intuitivamente, che tutte le persone hanno un'esperienza dalla quale possono trarre. E, comunque scusatemi, ho avuto un momento di nerd in cui ho guardato invece tutta la bibliografia. Hai estraniato la discussione. Grazie Marta. No, se Miriam aveva finito, no, io provo a fare una considerazione prima, che da pavido non ho fatto e ho preferito mandare la musica, che però riguardava la questione di fermare tutto il lavoro di una collettività nel momento in cui ci sono episodi di violenza. Che ovviamente ha suo senso. La cosa che io ho pensato è questo: è particolarmente oneroso pensare di sospendere completamente tutto il lavoro della comunità intera, che ha comunque, per esempio, facendo riferimento ovviamente alle comunità di cui faccio parte, quindi politiche, di un centro sociale, che si pongono vari obiettivi, tra cui influire sulla realtà circostante, eccetera, perché accade per un solo elemento all'interno o un solo accadimento all'interno della propria comunità. Perché allora mi viene da pensare, però per esempio, non è mai un solo accadimento. Esatto, che sì, hai ragione. No, però per esempio adesso mi sono già spiegato da solo, purtroppo, perché ho pensato, non è che ci si potrebbe fermare, però in realtà forse funziona, per un solo accadimento di, mettiamo, fascismo. Cioè non è che se un domani io esco da qui e incontro dei militanti di estrema destra e mi picchio, allora tutto ZAM completamente si ferma. Sotto un certo punto di vista sì, sotto un certo punto di vista no. Nel senso che poi se il giovedì dopo, settimana prossima, c'è comunque l'assemblea di quartiere, qualcuno di noi va lo stesso. Non è che non ci va perché io sono all'ospedale, un naso rotto e dobbiamo andare poi a fare tibia e menischi a quegli altri o quelle altre. Per cui, cioè, nel senso, lo penso, cioè, sì. penso che comprendo l'importanza fondamentale che ha fare una cosa del genere. Mi domando non tanto se è fattibile, perché è fattibile, bisogna volerlo e farlo. Mi domando quanto sia giusto rispetto al fatto che sono tante cose sempre fondamentali da fare in ogni momento. E anche questa è una delle tante altre cose fondamentali da fare in ogni momento. Ma c'è proprio, non so, spero se mi spiegate. No, prego. Dico una cosa super veloce che magari, visto che tra l'altro la gente ci ascolta, quindi non ha un testo scritto sotto, ci sta a ripetere che anche prima noi cioè Martina e Chiara era d'accordo e io sono d'accordo sul fatto che spesso interrompere tutto non è funzionale, proprio perché si tratta un accadimento come fosse qualcosa di speciale, come se fosse un'emergenza, quando in realtà non lo è, quindi è giusto che sia impregnato della quotidianità e quindi che se ne parli, si facciano dei processi di giustizia trasformativa, non in una situazione di eccezionalità, ma calati nel proprio vissuto. E tra l'altro questo, quando parlavamo di questa puntata, di come organizzarci, continuavamo a dire, raccontiamo perché siamo arrivati alla giustizia trasformativa nel nostro processo. Ad esempio io 5-6 anni fa o anche 4 anni fa non l'avrei mai detto questa cosa, del fatto invece che bisognava fermare tutto per pensarci, e invece adesso mi rendo conto come no, proprio perché non è un'emergenza e quindi motivo per cui bisogna agire, diciamo sempre, in modo che sia radicale, che sia strutturale, che sia decostruttivo in senso totale, e quindi farlo nella quotidianità e in tutto quello che facciamo costantemente. E poi faccio un piccolo appello Gulli divertente, ma che entrambi viviamo perfettamente, cioè secondo me questo non bloccare tutto non significa non dare la giusta importanza, non dare il giusto spazio, perché spesso facciamo 2589 cose, siamo sovraccariche, sovraccarichi di tantissimo, però comunque si riesce a dare la giusta importanza, il giusto tempo a tantissime cose importanti nelle nostre vite. Ma secondo me non bloccare tutto è dare il giusto spazio, perché stai trattando la cosa nel giusto modo, stai dando il giusto approccio al danno, e tra l'altro danno che lo sappiamo essere solo la punta dell'iceberg, perché se Gulli tu un giorno esce e vai a fare il saluto romano, due settimane prima magari ti hai rimesso la camicia nera e la gente aveva detto vedremo. E magari il giorno dopo avevi fatto un intervento un po' stranino in assemblea e dicevano: ma Gulli è un fascio? Certo. Ah, strano. E magari poi appunto il giorno dopo eri stato visto con una Nazi skin. Cioè, e poi hai fatto il saluto romano. Quando nelle nostre collettività, scusate l'analogia però, capire, quando nelle nostre collettività sono sorti casi di, magari non so, violenza sessuale, no, che sappiamo essere appunto una delle forme di violenza più esplicite, diciamo così, perché più difficili da ignorare, mettiamo, più scandalose, no, che creano più noi lo sapevamo già, cioè noi lo sapevamo già che le persone, che le persone, il maschio violento che ha agito con la violenza sessuale era violento. Perché era violento in 200.000 altri modi. Perché la violenza si era già manifestata. Ma era molto più facile da ignorare. Era molto più facile mettere la polvere sotto al tappeto. E quindi solamente al danno pesante, gravemente pesante, poi noi tendiamo a non mettere in scala appunto la gravità delle violenze, perché una violenza è una violenza, però possiamo riconoscere alcune come appunto più scandalose nell'opinione pubblica, sui giornali, ma anche tra di noi, perché anche noi siamo totalmente intrise appunto di questa purtroppo classificazione tra virgolette, e quelli meno, un po' più in sordina, così appunto la piramide della violenza. Noi quando andiamo nelle scuole come degenerazione, facciamo parte anche di una di meno, durante tutto il corso dell'anno specificatamente ovviamente verso l'8 marzo o verso il 25 novembre, ci chiamano appunto studenti e studentesse delle scuole, i collettivi, per appunto parlare nelle scuole o in assemblee pubbliche per l'appunto di violenza di genere. Noi la mostriamo sempre questa piramide, ma ancora di più secondo me è importante mostrare l'iceberg, perché tutta la parte sotto è coperta, o meglio sembra coperta. Martino, voleva aggiungere qualcosa su questo punto? No, possiamo andare avanti. Va bene. E allora un'altra cosa su cui volevo chiedere, così a bruciapelo, perché me lo ricordo a partire dalla tesi che feci io invece all'università, cioè il tentativo che hanno avuto in Kurdistan, nel Rojava, di provare a costruire uno stato differente basato sul confederalismo democratico, municipalismo libertario, ce l'ho fatta, e che aveva anche tutta una sua struttura di affrontare gli episodi di violenza sessuale o a scopo sessuale, di genere in generale, e loro invece avevano un'impostazione dettata comunque da una tradizione comunque stalinista del PKK, eccetera, per cui per loro invece la prassi era che una comunità di donne prendeva in carico l'uomo che doveva essere rieducato, veniva accompagnato, eccetera, che non è tendenzialmente il concetto della società trasformativa. Questo perché loro la inquadravano, penso, più del tipo: tu sei un soggetto deviato, perché noi già siamo società che si costituisce, si dà delle forme antipatriarcali, antifasciste, antisessiste, per cui evidentemente tu non hai capito bene qual era la cosa e noi ti rieducheremo con più attenzione. Più non era una messa in discussione della comunità in sé, questo perché vabbè, loro hanno la possibilità geografica e anche, come si dice, non etica ma etnica, di avere un certo tipo di purezza, organizzazione, definizione ben chiara del limite, dei loro confini, potevano applicare una roba del genere. Questo è l'unico altro esempio che ho nella mia scarsissima competenza di ipotesi di una giustizia diversa, perché comunque lì anche loro si rifiutavano di dire facciamo come si fa in Turchia, in un qualsiasi stato capitalista liberale, ti mettiamo in galera e buttiamo via la chiave. Cosa che invece, se non sbaglio, veniva sempre fatta in tutti i paesi sovietici, tutti i paesi comunisti, anche in Cina, che non hanno molto questo concetto riguardo alla giustizia. Ce l'hanno forse in alcuni casi nell'ambito del decidere collettivamente davvero cosa fare, però poi quando riguarda la giustizia invece il sistema è essenzialmente lo stesso, identico. E quindi vabbè, volevo chiedere, stavo cercando di scivolare sempre di più sul pratico, perché mi sembra che sia poi quello che ci manca e che sarebbe affascinante fare. Non mi fare i sussurri, sono le 8, mi dicono che sono le 8, di più sono le 8.07, ci prendiamo ancora un 10 minuti, poi andiamo a una scarica di musiche e salutiamo e basta. Non so, se si poteva scendere verso il pratico, se c'era qualche tipo di esperienza che magari Martina aveva attraversato con la sua tesi, che ci poteva spiegare un attimino, non lo so se vorrei, se c'è una vicenda, un esempio, una comunità, una città che ha dato una prova, un modo di fare, un sistema per affrontare e mettere in campo realmente della giustizia trasformativa. Sì. Forse, ok. Sì e no, nel senso che sì, nel senso che no. Ovviamente tutte la letteratura che abbiamo citato prima, ma in generale se si fa una ricerca su transformative justice, in realtà soprattutto nei siti, quelli un po' accademici, se fai la ricerca in inglese ovviamente viene fuori un botto di roba. Tutto quello che viene fuori parte dalla pratica, e questo secondo me è il primo dato importante. Ce lo insegna non a caso il femminismo, anche un po' la pedagogia, comunque devi parlare, devi studiare, devi pensare, ma poi due robe devi pure fare, perché sennò non se ne esce. E da qui, e quindi tutto quello che noi leggiamo arriva da sperimentazioni pratiche sostanzialmente. Tutto quello che leggiamo ci dice anche, abbiamo proceduto, si dice così, per tentativi. Cioè, ci siamo ritrovati in quella situazione. Quella situazione non ci interessava affrontarla attraverso la giustizia retributiva e non ci bastava affrontarla attraverso la giustizia riparativa. Volevamo altro e abbiamo creato, provato dei sistemi. È chiaro che alcune linee adesso appunto un po' ci sono. E per esempio, non so come dire, è fondamentale, per esempio, perché ritorno a quello che dicevi prima, no? All'impellenza del fare e del portare avanti poi la pratica quotidiana. Consideriamo anche che noi adesso qui ci stiamo concentrando su collettivi e collettive politici e militanti, ma Questa roba qua si può applicare a qualunque comunità, cioè al condominio. Non è che puoi dire alla gente: mo smettete di andare a lavorare tutti quanti perché dobbiamo fare il percorso di giustizia trasformativa. La gente continuerà ad avere la sua vita e aggiungerà il pezzo della giustizia trasformativa. E in questo senso noi dobbiamo prestare questa attenzione e dirci: non siamo nello stato d'emergenza, no? Per cui blocchiamo tutto e affrontiamo solo questo. Siamo nello stato normale, perché che ci piaccia o no e non ci piace tanto, siamo nello stato normale. E lì ovviamente vuol dire chiedere aiuto a qualcuno, appunto, che agisca da facilitatore o facilitatrice, vuol dire imparare con questa persona a fare bene la lettura del bisogno, imparare a costruire bene gli obiettivi che ci si dà, imparare a progettare un percorso dettagliato di quello che succederà e condividerlo come collettività, di modo che effettivamente tutti e tutte ci si assume la responsabilità che questo percorso avvenga così come deve essere, come deve avvenire. Si deve ragionare su, ad esempio, se parliamo di violenza di genere, per esempio, noi dobbiamo essere certi e certe che tutte le persone che sono coinvolte nel processo abbiano la stessa visione politica della violenza di genere, perché altrimenti il linguaggio e la conversazione fra di noi non sarà mai efficace, ovviamente, perché se parliamo di cose diverse non riusciremo mai a capirci, e questo è poco ma sicuro, ed è una delle cose che effettivamente poi vediamo. Bisogna darsi dei tempi, che spesso sono tempi molto lunghe, e poi a un certo punto, per esempio, bisogna anche dirsi: questo percorso è finito per quest'altro motivo, perché è arrivato a compimento o perché si va a interrompere o per qualunque altro motivo. Dal punto di vista delle persone, io, scusa, mi viene in mente, perché sto guardando nel frattempo, leggo, ci sono, secondo me, oltre a creative intervention, che tutte queste cose qua le dice, attenzione bene, e le dice molto meglio di come le ho dette io, e proprio passo passo, per cui per esempio creative intervention è il toolkit di chi vorrebbe un po' agire come facilitatore o facilitatrice, ma dentro a quella formazione lì del workbook c'è anche... cosa devono fare tutte le persone coinvolte per poter approcciare quel percorso, perché altrimenti lì non ci siamo, e per cui c'è veramente tutto un lavoro anche di studio, di mettersi in pari, di capire come stiamo, di capire dove vogliamo andare, di capire quali sono i bisogni, quali sono i vissuti emotivi che sono stati citati prima rispetto alla situazione, ma anche rispetto poi durante tutto il percorso a come stiamo. Oltre a quello, secondo me sono molto interessanti, si trovano purtroppo, anche quelli sono in inglese, però due esperienze mi viene in mente, e si trovano qui perché si trovano delle forme molto più sintetiche, diciamo, rispetto a creative intervention, per cui sono un bello spunto. Philly Stand Up, che sono Philly scritto PHILLI, scusa, Y'S, nel senso che sono dei gruppi che sono nati a Filadelfia, si intende Filadelfia, che sono nati peraltro dai contesti anche qui DIY, quindi punk, do it yourself, tutta quella dimensione lì, che sono trovati ad un certo punto effettivamente a dover affrontare le situazioni, e hanno poi anche scritto, e poi si sono e poi hanno creato dei gruppi che effettivamente hanno continuato a lavorarci. Teniamo in considerazione anche questo, che il 90, credo, almeno no, forse il 100% in verità, ma il 100 non mi arrischio a dirlo, ma i facilitatori e facilitatrici non sono professionisti della facilitazione, non fanno quello di mestiere, tendenzialmente tutti fanno altro. Alcuni, mia Mingus, che abbiamo citato più di una volta, fa la formatrice sostanzialmente sulla giustizia trasformativa, e per esempio lavora tantissimo sulla giustizia per i disabili sostanzialmente. Sì, sì. Ma anche Giusy Palomba, o sbaglio? Giusy Palomba fa la facilitatrice. Facilitatrice, esatto. In Scozia. Tema lì della professionalizzazione, per esempio, Belux lo critica tantissimo, perché nel momento in cui un ruolo che dovrebbe essere un ruolo di investimento e di partecipazione anche alla trasformazione, alla vita di comunità, viene professionalizzato, è quello che è successo quando i gender studies sono diventati gender studies all'interno dell'università. Vuol dire depotenziare quello che poteva essere invece una roba dirompente. Dal che basso. In parte lo è stato, dal basso, ma che poi a un certo punto è stato sussunto dall'istituzione universitaria in questo caso. E lei questa cosa la critica molto, per cui questo rischio noi lo dobbiamo tenere rimanere sempre presente, no? I gruppi che fanno questo tipo di attività tendenzialmente, se vai a leggere poi le testimonianze eccetera, fanno altro e fanno anche questo, che non significa che questo non può essere retribuito in qualche maniera, perché ovviamente richiede un impegno considerevole, però comunque non è la professionalizzazione, è la partecipazione che rende davvero significativo il percorso che viene fatto, la partecipazione anche dei facilitatori e della facilitatrice. Oltre a loro io segnalo, vabbè, tutto il lavoro di Insight e Critical Resistance, anche qui purtroppo, perdonatemi, tutto in inglese, e Communities Against Rape and Abuse, CARA, che invece sono di Seattle, e anche loro hanno fatto una, diciamo, come dire, le regole, 10 passi, adesso chiamatemi cazzo volete, abbastanza sintetico e molto interessante. E effettivamente raccontano tanto di esperienze, ecco, per cui poi si va sulla pratica. Sì, che poi diciamo i protocolli, cioè insomma il 10 passi per un qualcosa che ma a noi come collettiva in generale è sempre stato molto stretto, diciamo che più che protocollo ha senso parlarci di linee guida generali, appunto, da cui partire e di porsi i giusti obiettivi. Secondo me, appunto, questa è la cosa più sensata. Ma pongo l'accento su una cosa importantissima che ancora non è stata approfondita e che è sostanzialmente in realtà il punto di partenza, per cui appunto ritorniamo indietro. Non possiamo darci nessun processo trasformativo se la persona che ha agito il danno, uno, non si riconosce come tale, due, non riconosce il danno come danno, tre, non ha intenzione per qualche motivo di svolgere questo percorso. Non sono d'accordo. Non sei d'accordo? Ti passo la palla. Non sono d'accordo, perché la comunità non può essere determinata solo ed esclusivamente da chi ha agito qualcosa. La comunità è una comunità che esiste comunque prima e dopo che qualcuno agisca un danno. Certo. E la comunità ha diritto, secondo me, di non essere sovradeterminata da quella situazione e invece di lavorare per la propria trasformazione, che tendenzialmente poi significherà anche escludere, non so come dire, in modo naturale la persona che ha agito il danno, che non vuole partecipare a questo processo, ma perché si comincerà a leggere quel comportamento come un comportamento abusivo, piuttosto che violento, piuttosto che non in linea con quello che la nostra comunità vogliamo che diventi. E questa cosa qui trasforma la comunità, non trasforma la persona probabilmente. Esatto, però esatto. Trasforma la comunità. È un altro percorso, ci sta, interessante. C'era una domanda da casa, ce la faceva Giulia. Domanda è: qual è il limite di accettabilità rispetto al tipo di danno, rispetto al fatto che si affronti con la giustizia trasformativa e non con le istituzioni? Io non tuttora c'è. Non ho capito questa domanda. No, non c'è nessun limite di accettabilità. Okay. Chi opera nel campo della giustizia trasformativa ti dice, peraltro, no, ti dice qualunque tipo di danno può essere affrontato attraverso il percorso di giustizia trasformativa. E in realtà tanti dicono anche, se lo possiamo fare con la violenza di genere, tendenzialmente lo possiamo fare con qualunque altra cosa. Ma poi non ci sono appunto famosi casi in Ruanda di intere comunità, cioè si parlava di genocidio, riparativo, no, però, cioè, però. Però riparativa. Riparativa. Okay. Riparativa, uno degli esempi più grossi c'è stato in Ruanda, prima ancora in realtà sono i tribunali, come si chiama? I tribunali per la giustizia? Adesso mi verrà in mente, ma in Sudafrica post apartheid, quella è stata un'esperienza pazzesca, veramente pazzesca, effettivamente di giustizia riparativa, però in cui tutte, sostanzialmente per la prima volta nella storia, le vittime hanno potuto parlare all'interno dei tribunali con le persone, i generali, i capi militari che avevano Truth and Reconciliation Commission, ecco, le commissioni per la verità e la conciliazione. Verità e riconciliazione, esatto. Un lavoro pazzesco, interessantissimo fra l'altro. Comunque, di nuovo per bibliografia, consiglio Incarcerazioni di massa di Bas Dreisinger, che non parla di giustizia trasformativa, ma dedica un intero capitolo sulla giustizia riparativa in Ruanda, che ci può anche dare un pochino di spunti se faremo un'altra puntata. Potremmo fare anche un'altra puntata. Non vi costringo a firmare il contratto adesso, perché se andiamo avanti così ne facciamo altre 20. Esatto. E va tutto bene. Però per la prossima volta bibliografia vietata, perché da quando abbiamo detto facciamo un po' di bibliografia avete nominato 75 libri e avete smesso di parlare. Si quindi, potrebbe vivere per leggere, no? Sarebbe bello. Bisognerebbe essere pagati per leggere, pagati per non lavorare. Assolutamente. Bisognerebbe non lavorare, è molto semplice. Madonna, quanta giustizia che esce da questi microfoni stasera, guarda, meraviglioso. Porco Dio. Non lo so, allora. Allora, cosa vogliamo fare? Vogliamo fare un'ultima uscita. A questo punto vi dico una roba soltanto. Dite quello che volete sulla giustizia trasformativa in 2 minuti, una volta a testa, e poi basta, chiudiamo. Non lo so, l'ho messa sul l'ho messa sul karaoke perché non sapevo cosa fare. Vi chiedo scusa. A posto così? La Marti ha una faccia contraria. Cosa vuol dire dite quello che volete se la giustizia trasformativa in due? Dai, allora, una chiusa. Una chiusa. Ma io, se vuoi, rifacciamo la stessa domanda che abbiamo fatto quando abbiamo fatto organizzare la puntata. Tra l'altro, incredibile, perché siete le uniche persone che mi hanno fatto preparare qualcosa in radio. Vabbè, meraviglioso, non ero abituato. La cosa più scioccante della giustizia trasformativa, Marti. E tu mi avevi già risposto a questa domanda. E mi avevi detto una roba tipo: ma che domanda è? Infatti ripeterei, effettivamente potrei rifarlo. E sto pensando, ma poi chissà che cazzo gli ho detto, invece non me lo ricordo. Perché effettivamente non me lo ricordo. No, dirò una cosa, guarda, prego. Che invece non c'entra niente. Esco da qui. Però secondo me ci ascoltano tanti educatori ed educatrici, perché so che le nostre communities sono abbastanza conosci tuoi polli. Sociale, conosco i miei polli. Dirò questa cosa: io ho riscoperto, per esempio, Paulo Freire, studiando la giustizia trasformativa. L'ho riscoperto perché Pedagogia degli oppressi è un capolavoro della pedagogia, ma soprattutto perché, come prima si diceva, possiamo comprendere, insomma, perdoniamo Sartre che ha scritto, quando ha scritto, Paulo Freire ha fatto anche un pezzettino in più, nel senso che ha avuto l'opportunità di scrivere Pedagogia degli oppressi negli anni 60 quando l'ha scritta, ma anche poi negli anni 70-80 di confrontarsi invece con il femminismo, e in particolare, per esempio, è interessantissimo che ha avuto un link molto forte con Bellux, per cui si sono profondamente confrontati, ed è stato in grado di dire: non può essere una pedagogia degli oppressi, deve essere per forza una pedagogia degli oppressi e delle oppresse. Io non posso ragionare in termini universali maschili, ma è importante che invece poniamo questo doppio sguardo. Ora, la pedagogia degli oppressi ci insegna a prendere coscienza delle condizioni in cui noi viviamo di oppressione, per l'appunto, in cui noi tutti e tutte viviamo di oppressione, e anche di lavorare per la liberazione da questa oppressione. Quindi profondamente trasformativo come approccio pedagogico, ed è stato in grado, seppur io ormai non definisco più, non mi permetto di definire nessun uomo femminista, non definirò neanche Paulo Freire, ma sicuramente in dialogo, in conversazione con tutto il femminismo e la pedagogia femminista sostanzialmente degli anni 90 e via dicendo, ecco, questo secondo me è un processo trasformativo di apertura, di disponibilità, di accoglienza delle riflessioni e delle esperienze che vengono portate da altre. Per cui la chiudo con Paulo Freire, stranamente, tanto fino adesso abbiamo citato solo delle donne praticamente, quindi uno quanto come azzurra, lui ci no. poteva azzurra. Stare. Prego. Io sinceramente non ho più nient'altro da aggiungere, cioè, credo che abbiamo messo sì, tanto. Chiara mi deve dare un ultimo brano, dopo, adesso vuoi ti dire? Ti do un ultimo brano e ti dico che la cosa più scioccante, no non è vero, non la so, però sicuramente la cosa che più mi stupisce positivamente, mi meraviglia dell'apparato, diciamo, giustizia trasformativa è la cura, cioè come riusciamo a trasformare quello che adesso è un concetto, anche questo totalmente sussunto dalla skincare neoliberale, in una cura collettiva e in una giustizia collettiva che risponda veramente alle nostre esigenze e all'amore e alla rabbia. Fine. Molto bello, però mi devi dare adesso, te la metti da sola l'ultima canzone, vediamo un po' come funziona. Vediamo un po' cosa ti sparo. Quanto mi manca Lorenzo in questi casi, che riusciva a scaricarla direttamente in 60 secondi. Bastava cianciare un attimino alla radio e riusciva a trovarti qualsiasi canzone. Però torneranno questi fasti e questi tempi meravigliosi. Nel frattempo annunciamo che il podcast di questa puntata arriverà, non si sa quando, ma arriverà sicuramente. È tempo di Lorenzo di fare tutte le sue magie. Mi sono perso un cavo che mi è caduto tra i piedi. Voilà. La prima... Ah, così, un grande classico. Ah, così, così proprio. Va benissimo. Te la voglio dare così. Mi piacerà tantissimo anche a Martina, penso. Se vediamo se la sentono tramite le mie cuffie. Nel frattempo possiamo iniziare ad augurarci buon Capodanno, buon Natale è andato. E siate basta. Le befane. Siate le befane peggiori dell'universo. 25 di lotta. Ciao, Ne. Buona serata ciao. A tutti e a tutte. Ciao, grazie. Ciao. La fretta del cuore è già una novità che dietro un giornale sta cambiando opinioni e il male del giorno è pochi chilometri a sud del mio ritorno, del mio buongiorno, ma in volo a planare dentro il peggiore motel di questa carrettera, di questa vita balera. E un volo a planare per essere inchiodati qui, crocifissi al muro. Ma come ricordarlo ora? Non sono una signora. Foglia d'argento data da un albero abbattuto qua, e che vorrebbe inseguire il vento, ma che non ce la fa. Oh, ma che brutta fatica cadere qualche metro in là dalla mia sventura, dalla mia paura. E un volo